Fra un momento può ascoltare di nuovo l'introduzione, solo in italiano. In a moment you can hear that introduction again, only in Italian. Se capisce bene l'introduzione, benissimo. Ma se ha dei problemi, ascolti l'introduzione in inglese e in italiano ancora una volta. If you understand the introduction, fine. But if you have any problems, listen to the introduction in English and Italian again. Ed ora ecco l'introduzione. Buona fortuna. Good luck. Sì, buona fortuna.